Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi oggi al telefono il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Con te Carlo parliamo di manovre, anzi manovrine, che sono chiamate così manovrine, ma alla fine pesano e come sempre pesano sulle tasche degli italiani. Sì, pesano sulle tasche degli italiani perché come sempre ci troviamo all'inizio dell'anno sempre a parlare di nuove tasse, rincari e quant'altro, e questa volta a costringerci a parlare di questo sono un po' i segnali che arrivano da Bruxelles, che chiaramente ci invitano ad aggiustare i nostri conti, perché siamo sempre bravi a non arrivare mai puntuali agli appuntamenti e di conseguenza in questa situazione stiamo un po' paventando quelle che sono le ipotesi, tra le quali le più gettonate sicuramente, anzi andremo a ragionare su quelli che sono un eventuale aumento delle accise sui carburanti e delle sigarette. Ecco, quindi lo Stato italiano deve rispondere a Bruxelles e proprio per questo ci sarà un prelievo fiscale ulteriore proprio su quelle che sono il gasolio, insomma il gasolio, la benzina per i mezzi di locomozione e anche le sigarette. Beh, sulle sigarette sarà perché non fumo, ma la cosa non la vedo così male, in questo caso mi odieranno chi fuma, ma proprio aumentare i costi dei benzina e diesel significa poi anche andare ad aumentare un po' tutte le cose, perché sulla benzina si basa molto l'economia italiana, no? Ah beh, sicuramente, anche perché insomma abbiamo anche qualche dato su quelle che sono insomma un po' le ipotesi sopra il tavolo dei ministri, che difficilmente poi, aggiungo, verranno smentite. Allora si parla di un aumento di 3-4 centesimi al litro, chiaramente una cifra destinata anche a superare i 4 centesimi nel caso, come sembra, gli aumenti partissero ad aprile. Quindi per quello che può essere un consumo medio di un'autovettura basata sui 15.000 km all'anno, abbiamo già fatto un ragionamento che per ogni cittadino questo potrà aumentare fino a 26-28 euro per le vetture a benzina e 34-36 euro per i diesel, e questa è una cifra. Per l'altra invece dobbiamo parlare di aumenti tra i 10-20 centesimi a pacchetto. Ricordiamoci che in Italia la media delle sigarette fumate dai cittadini sono 13 sigarette, addirittura si calcola che fumano 11 milioni di fumatori, quindi si parla di un aumento di circa 35-40 euro per persona, che sommato all'aumento della benzina siamo insomma nella media dei 60-65 euro all'anno. Speriamo che non ci siano neanche rintocchini, perché poi si parla di dare piccole di natura, anche su quelli che sono i boli, le imposte, insomma faremo un po' a vedere. Però sulla benzina, ecco, vale la pena fare anche un ragionamento più ampio, perché ricordiamoci che insomma, in Italia il peso delle accise e insomma il cuneo fiscale anche sui carburanti siamo intorno al 65% al litro, per cui una percentuale molto importante che insomma ci rende unici e protagonisti agli occhi insomma del mondo intero. Ecco, infatti sempre lì si va a cadere, ahimè, proprio sui costi della benzina. Anche in altre occasioni abbiamo parlato di tasse che paghiamo, le famose accise sulla benzina, ancora cos'è, la guerra di non so che, dell'Abissinia piuttosto che. Sì, si parla anche di terremoti, si parla di tante cose, però sostanzialmente ormai abbiamo visto che aumentare queste cose significa ormai andare un po' sul sicuro. Però quello che poi dobbiamo renderci conto, come hai annunciato te, che crei un indotto e un aumento dei prezzi di filiera, che alla fine comunque vanno sempre a ripercuotersi sulle tasche italiane e all'utente finale, perché chiaramente andare a aumentare i trasporti vuol dire andare a aumentare quelli che sono poi prodotti, anche i costi, gli stessi sugli scaffali, per tutto un ragionamento di logistica. Però ecco, rimane da sottolineare come siamo di nuovo alla vigilia di una manovrina, e ricordiamoci che è solo una manovrina di aggiustamento di fronte a quello che insomma è un macro aggiornamento che ha a che fare con il debito pubblico, con tutto il peso insomma, degli interessi che gravano su questo, che certamente meriterebbe una riflessione molto più severa e ampia. Però non è mai piacevole iniziare l'anno dopo i rintocchi che abbiamo già avuto i primi di gennaio, parlando anche di nuovi qua i primi di febbraio, quindi ogni mese sostanzialmente ce n'è una. Ecco, non buone notizie, quindi speriamo di riuscire a darne di migliori nei prossimi appuntamenti. Grazie all'Adico, ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, dove trovate tante altre notizie interessanti da sfogliare sul web, e grazie quindi al presidente Carlo Garofolini, ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.